So another very important thing is the new concept of democratic nation. The democratic nation does not mean Kurdish nation and it will be democratic. No, it means we form a new idea of nation which will include everyone. Kurdish people, Turkish people, Persian people, Arab people, Armenian people, Syrian people. L'altro punto su cui volevo soffermarmi è una nuova idea di nazione democratica, dove nazione significa uno spazio inclusivo di tutte le differenze, in particolare le differenze etniche, e basato su alcuni principi etici fondamentali come la liberazione delle donne. Questo è particolarmente evidente nella Carta del contratto sociale della Rojava. È un contratto sociale a indicare il fatto che è stata una carta scritta collettivamente durante un lungo processo di confronti, incontri, cambiamenti del testo, modifiche, e è un testo ancora aperto. Si conclude con l'idea che questo processo continua, e vediamo che all'inizio sono nominate le tante differenze che costituiscono la Rojava, oltre al fatto dell'affermazione che l'eguaglianza di genere è un principio non negoziabile, un principio fondamentale non negoziabile. E quindi questa carta della Rojava, questa esperienza della Rojava, non è pensata solo per il popolo curdo, ma per tutti, e diventa un elemento decisivo per l'avvio di un processo di pace in Medio Oriente, i cui conflitti nella regione sono basati al contrario su fenomeni di nazionalismo, fondamentalismo, settarismo, eccetera. Vi ho fatto vedere ad esempio delle foto. Qui vediamo la copresidente di Cisre, del cantone in Rojava. Lei è una donna molto importante e curda, e al suo fianco siede un capo di una tribù araba. Poi nelle foto successive ci sono i componenti dell'ADP, il partito che è entrato al governo in Parlamento in Turchia, e abbiamo gli yazidi, armeni, musulmani, cristiani maroniti tra questi componenti. E questo è estremamente importante perché la Turchia, il governo turco, è caratterizzato dal disconoscimento di queste differenze culturali, confessionali e etniche, mentre con l'ingresso di questo partito queste differenze sono diventate visibili ai partecipi della politica del paese, e l'idea, la prospettiva è quella di aprire a una nuova idea di politica, una nuova idea di cittadinanza, una nuova idea di appartenenza. Questo tipo di percorso è il percorso che maggiormente rappresenta l'autodifesa per il popolo curdo. Refugees, for example, in Kurdistan, especially Yazidi refugees, who maybe many of you heard about the attack of Daesh on the Yazidi community, raping, enslaving, and selling the Yazidi women as sex slaves. Yazidi people are not Muslim, and by Daesh, they're considered to be. Ad esempio, sulla questione dei rifugiati in Kurdistan, c'è una parte che sono di confessione yazidica, e in particolare questo gruppo ha subito degli attacchi molto forti da parte del Daesh, perché non essendo musulmani sono considerati cultori del diavolo, e quindi per definizione possono essere uccisi. E in particolare di questi attacchi sono state fatte oggetto le donne. Dopo questi attacchi si è costituito un consiglio composto da donne che hanno cominciato a auto-organizzarsi per l'educazione in varie altre iniziative, e soprattutto hanno iniziato a formarsi all'autodifesa, perché l'idea è che non bisogna mettersi sotto la tutela altrui, che la difesa debba essere assunta attivamente. Questa anziana mi ha detto che la protezione migliore è l'educazione, la consapevolezza politica e dunque la capacità di auto-organizzarsi, di mettersi insieme e auto-organizzarsi. Nel nord del Kurdistan adesso non è più questione di guerriglia, di un gruppo contro gli eccidi condotti dal governo turco, ma è la popolazione che è diffusamente scava trincee. Gli attacchi del governo turco sono stati particolarmente violenti, soprattutto sulle donne che una volta uccise venivano denudate e la loro immagine veniva diffusa accompagnata da commenti sessisti oppure da commenti che evocavano la ripetizione del genocidio che è stato perpetrato sul popolo armeno all'inizio del Novecento in Turchia. Quindi il dato importante è che in questa situazione si sia diffusa a livello di tutta la popolazione, non più solo di un gruppo, l'idea dell'educazione, della consapevolezza politica e dell'auto-organizzazione e dell'autodifesa. The leaders of their own community. So this is a very, very important development. So I want to conclude. It is time to really rethink the borders that were never reflecting the reality of these people anyway. This is a photo from the time of Kobani. Many of you probably heard of Kobani, which became the town. Vorrei concludere con questa fotografia che è stata scattata a Kobani, uno dei cantoni della Rojava, e che rappresenta l'idea di disfare le frontiere, disfare i confini e non solo materialmente. Kobani è una città che l'anno scorso ha conosciuto una grande notorietà a livello internazionale perché è riuscita a respingere, la popolazione di Kobani è riuscita a respingere il Daesh. E solo dopo alcuni mesi di resistenza, che è stata fatta non tanto per via di una grande disponibilità di armi e di capacità di risposta armata, ma soprattutto attraverso mezzi di organizzazione, dopo aver riuscito a tenere testa al Daesh, a respingerlo per mesi, sono arrivati i paesi occidentali in aiuto con dei bombardamenti aerei. E questo ha sollecitato una grandissima curiosità e moltissime persone da tutta Europa sono venute per partecipare e avere esperienza diretta di questo progetto, di questa realtà. Quello che voglio sottolineare è che questa capacità di resistenza è data dal fatto che c'è qualcosa per cui combattere, c'è un'alternativa, c'è un'idea alternativa di che cos'è la vita in comune, di che cos'è la politica, di che cos'è il sapere. Quindi non basta essere solo anti e lavorare solo criticamente col pensiero, ma è necessario produrre un'alternativa. Chiudo su questa immagine che ho preso esattamente un anno fa di Arbakir, la città curda più popolosa in Turchia, e vedete che ci sono esponenti del movimento LGBTQ, ci sono donne anziane vestite in modo tradizionale e ci sono esponenti di altre culture politiche, e è importantissimo dire che il movimento curdo si è sviluppato così in Medio Oriente contro una mentalità di violenza e in particolare di violenza sulle donne, quindi creando una costituendo un'alternativa di inclusione democratica e di rapporti tra differenze. Bisogna dire che questa è già una rivoluzione in corso e che è stata soprattutto promossa dalle donne che sono riuscite a trasformare la mentalità maschile su un'altra idea di cittadinanza e di rapporti sociali. This is a politics of the people, and maybe you noticed I didn't show you people in like suits, etc. I showed you women and men who just look like ordinary people, because they are the ordinary people. These kinds of people, working class, poor people, who previously had nothing, they could not leave their homes, now they are the primary decision makers. And only this kind of thinking about politics can lead to emancipation. And with that, I would like to say, if you want to read more about this, you can. There are some leaflets of Abdullah Öcalan's books. There's also the Kurdish Information Office in Rome that you can be in touch with, and so on. So what we really need in order for this to survive is international solidarity. We need people like you to read and educate themselves about what is happening. Molto rapidamente un ultimo punto, se volete saperne di più, qui ci sono dei testi a cui ho fatto riferimento durante l'intervento, cioè il punto informativo di Wikionlus e lì abbiamo Rojin a cui potete rivolgere richieste ulteriori. E è molto importante che ci sia un interesse, uno scambio rispetto a questa realtà che ha imparato moltissimo dalle lotte europee in tutto il mondo, dal femminismo. C'è una connessione tra le lotte per la giustizia e per una libertà che va rinnovata costantemente nelle nostre vite. Ma penso anche che perché questa realtà sopravviva vada dato spazio anche alla curiosità e all'apprendimento che questa esperienza può offrire. I hope we can continue the struggle together. Thank you so much to everyone who came. Thank you.